Sono le ore 12:39 di sabato 19 ottobre 2024. E come si capirà dallo sfondo, mi trovo in un cinema, sono l'unica persona. Non è un cinema in realtà, ma è la videogallery del Maxi, praticamente l'ultima area di questo museo quasi abbandonato in termini di direzione artistica, che è rimasta a disposizione del pubblico prima di pagare il biglietto, perché le altre mostre dentro l'edificio, almeno dentro l'edificio di Zaha Hadid, le altre mostre di cui ho già parlato in registrazioni precedenti e che l'hanno trasformato in un museo dell'arte innocua, a mio parere, sono comunque mostre per le quali bisogna normalmente pagare il biglietto. E invece, diciamo, in qualche modo resiste questo spazio, che è un posto dove chiunque può venire e assistere a una selezione di corti, tipicamente, o documentari, e spesso, anzi direi quasi sempre, collegati alla programmazione del museo. Poi ci sono altre mostre gratuite dall'altra parte della piazza, ma legate a operazioni, diciamo, che coinvolgono soggetti esterni, che quindi sfuggono un po' alla curatela del museo. Penso alla tutto sommato interessante mostra sui 100 anni della radio e 70 anni della TV curata dalla RAI, che si trova nel palazzo dell'ex autoparco. E anche se così provvisoriamente talvolta succede che anche questo spazio pubblico della videogallery subisca gli attacchi degli ispiratori della città difensiva, cioè quelli che temono che tutto possa diventare un bivacco, e quindi vediamo per esempio che all'interno di un luogo dovrebbe essere buio vengono comunque accese le piccole luci che danno un minimo di sensazione di sicurezza, che nessuno trasformi mai i comodi cuscini neri della videogallery in un luogo per i barboni. Ogni tanto si viene chiusa la porta tra la caffetteria e la videogallery, forse un invito troppo esplicito a frequentarla da parte di chi tutto sommato la vorrebbe un giorno chiudere. E ancora ogni tanto vediamo una programmazione che non copre tutta la durata, diciamo, dell'apertura quotidiana del museo, quindi ricomincia a somigliare a un cinema dove si entra in certi orari, mentre in origine era stata pensata come un luogo dove appunto si poteva entrare in qualsiasi momento, dove c'era un loop continuo di contenuti abbastanza lunghi da giustificare la visita. Invece, ripeto, talvolta succede che il programma viene accorciato proprio a sottolineare l'assoluta eccezionalità della gratuità di questo luogo. Nonostante tutti questi, ripeto, visibili, espliciti attacchi alla sua natura, in qualche modo la videogallery resiste, e resiste rappresentando appunto un'eccezione all'idea del curatore che da un lato deve difendere la sua professionalità, dall'altro poi alla fine viene remunerato normalmente per la capacità di fare content marketing, cioè di dare alle persone esattamente quello che desiderano, perché è l'unico modo per farsi pagare. Quando il luogo invece diventa gratuito, ecco che miracolosamente il curatore torna ad essere laico, libero rispetto al vincolo di cercare e trovare un pubblico. Ecco, questa è la riflessione di queste piccole pratiche, come la frequentazione di un luogo stranamente ancora aperto al pubblico, fanno emergere nei pensieri di ciascuno di noi.